La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci qua, ben ritrovati all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti. Una settimana ad alta tensione, ad alta qualità per quanto riguarda gli schermi cinematografici italiani, con l'arrivo di film molto importanti, anche di grande impatto popolare. Partiamo dai Muppet, passiamo a Ugo Cabret di Martin Scorsese, ma anche Millennium, per chi ha amato la saga tratta dai romanzi bestseller di Stieg Larsson, e poi ancora un paio di film importanti a livello indie, indipendente. Allora, i principali contenuti della trasmissione nei titoli di testa, poi subito il via col Muppet Show. Torna sul grande schermo una delle serie TV più amate dai ragazzi degli anni 70. I Muppets rifanno il loro show, ripescati dall'oblio, uno ad uno, da un fan ormai non più giovane. Rimetteranno in scena uno spettacolo memorabile, nonostante la traduzione italiana delle canzoni. Asher è stato qui e ha lasciato il segno. Joseph Gordon-Levitt e Natalie Portman, protagonisti di uno dei film indipendenti più interessanti della stagione. La storia dell'amicizia fra un giovane estremo e un ragazzino orfano ma deciso a risollevarsi dalla depressione. Primo capolavoro del 2012, Hugo Cabret, l'esordio in 3D di un giovanotto chiamato Martin Scorsese. Una storia per bambini e famiglie, fra magia e orologi, automi e cinefilia. Emozionante viaggio visivo che ha raccolto 11 nomination agli Oscar. Gli uomini odiano ancora le donne, anche nel remake Millennium, firmato David Fincher. Le vicende di Lisbeth Salander in Salsa americana, interpretate da Rooney Mara e Daniel Craig. No, non dimenticate di mandarmi una cartolina dai Muppet Studios! Ah, già, mi dispiace, ma sarà difficile, Walter. Ma Gary! Perché tu verrai con noi! Oh, Gary! Aspetta, che dice Mary? È felice, dice che più siamo e meglio è. Io non so neanche cosa dire. Lì ci sono i Muppet Studios. Non ci credo, sembra impossibile. Sbrighiamoci, dai. Non voglio perdere l'autobus. Scherziamo? Chissà, magari incontreremo Kermit. Io non ci spererei troppo, Walter. È un pezzo che i Muppet non fanno spettacoli. Credo che ora gli Studios siano solo un'attrazione per turisti. Già, o forse è solo una voce su internet come quel paese che si chiama La Rabbia. La mitica sigla del Muppet Show, ovviamente per chi non ha più, diciamo, 20 anni, ma ne ha qualcuno di più, è un tuffo nel passato straordinario. I Muppet Show torna, anzi i Muppet tornano in versione cinematografica sul grande schermo in una avventura davvero divertente ed emozionante. Avete sentito il dialogo fra Walter, un Muppet, e Gary, un ragazzo, un uomo, cresciuti come fratelli anche nella diversità, e da questo paradosso, da questa inverosimiglianza iniziale, chiaramente il film ci dice che dobbiamo essere complici di una storia che non ha proprio tutte le rotelle a posto. Negli anni Walter non cresce mai, perché è un Muppet, è un pupazzo, rimane quello che è, mentre Gary diventa grande e grosso, ma i due si sentono e continuano a vivere come fratelli. Ed ecco il viaggio a Los Angeles per andare a visitare gli studios dove una volta i Muppet facevano faville con il loro spettacolo di gran varietà. Ma arrivati sul posto, la sorpresa: un malvagio petroliere vuole abbattere questi studios perché sotto c'è il petrolio e non guarda in faccia nessuno. Che cosa può salvare la storia, il luogo, ma anche la magia dei Muppet? Un Teleton da 10 milioni di dollari. E per fare questo bisogna mettere insieme uno spettacolo come quelli di una volta, ovvero riunire la band come facevano i Blues Brothers, mettersi tutti insieme di nuovo e provare a raccattare questi soldi per salvare il luogo della loro memoria. E allora ecco che comincia il viaggio, e ovviamente la prima porta che si schiude è quella della villa di Kermit. Kermit? Oh, sei qui, ti ho cercato dappertutto. Ehi là, è un piacere vederti. E l'ospite? Hai trovato una celebrità? Ah sì, ecco, volevo, sì, infatti volevo parlartene, perché vedi, in un certo senso io posso considerarmi una celebrità. Tu? No, ascolta Kermit, io non manderò in onda lo show se non troverai una vera celebrità, d'accordo? Se sarò costretta manderò le repliche di Lassie. Hai ragione, ma vedi Veronica, il punto è che è impossibile, perché lo show è tra 12 ore. 12 ore! Hello! Hello! Hello! Incredibile versione del brano dei Nirvana, Smells Like Teen Spirit, versione Muppet a cappella, tutta corale. Insomma, c'è poco tempo da perdere, i Muppet riescono a recuperare i loro pezzi strada facendo, c'è Fozzi che suona in una cover band che si fa chiamare Muppet, tanto per tenere l'assonanza, c'è Gonzo che fa il boss di un'azienda idraulica e c'è ovviamente Piggy, la dolcissima, bellissima Piggy di cui Kermit è sempre follemente innamorato, che è invece la direttrice di Vogue Francia. Ferro, dove sei, grugno salsicciato? Piggy? Oh. Guarda, guarda che è uscita dalla fogna. Andiamo, sbrigati, Maurice. Spiacente, Miss Piggy, ma sei stata sostituita. Troppo tardi ormai. Oh, davvero? Davvero? Io non credo proprio. Sorella? Ehi, chi hai chiamato sorella? Sorella! Guarda, Dolci Gratis! Dove? Oh! C'è una sola! Miss Piggy! E chi è? C'est moi! Niente resta uguale. Passa tutto in fretta ed ogni cosa oggi mi sembra perfetta. E allora, sulle note di un altro dei brani portanti della colonna sonora, molto divertente, che è anche debitrice al grande musical americano degli anni 50, dei Muppet, una valutazione sul film. Una vera e propria impresa, perché tenere insieme appunto una storia che ha metà protagonisti umani, metà, anzi, grandi protagonisti, i Muppet, cercare l'effetto nostalgia, ma anche una avventura che possa appassionare il pubblico che si avvicina per la prima volta a questo show, è sicuramente un'impresa riuscita grazie a una sceneggiatura molto molto dettagliata che cresce nel corso del film e sfocia in questo spettacolo, in questa lotta contro il tempo straordinaria nella quale i Muppet ritroveranno il cuore del loro pubblico. Un grande classico per chi ha amato il Muppet Show negli anni 70 in televisione, per chi invece si dovesse avvicinare per la prima volta. Un unico peccato: le canzoni tradotte in italiano sono veramente devastanti. Bisognerebbe sicuramente, tutte le volte che siamo di fronte a un musical, avere la forza di tenere le canzoni in originale e magari di mettere dei sottotitoli per far capire il significato, perché gli adattamenti in questo caso sono davvero deprimenti. Però se togliamo questo, lo spettacolo del Muppet è sempre lo spettacolo di un tempo, ma è sempre più bella per chi se la spassa. La rosa purpurea. Subito dopo la morte di mio padre, venivo sempre quassù. Immaginavo che tutto il mondo fosse un enorme meccanismo. Le macchine non hanno mai dei pezzi in più. Hanno sempre l'esatto numero che serve. Così ho pensato che se tutto il mondo era un'enorme macchina, io non potevo essere in più. Dovevo essere qui per qualche motivo. E questo deve valere anche per te. Parola di Ugo Cabré, il piccolo Ugo Cabré, il protagonista del film di Martin Scorsese, l'approdo al 3D del grande regista di capolavori di forza, di potenza, di ritmo e di tempo. E guarda caso, il tempo è uno degli elementi fondamentali di questo Ugo Cabré, che è tratto da una sorta di graphic novel, un ibrido anche in questo caso di David Selznick, adattato appunto per il cinema da Martin Scorsese. Ugo Cabré è un bambino, un orfano, avete sentito, che vive nascosto nella stazione di Parigi Montparnasse. Siamo nella Parigi degli anni 30, mirabilmente probabilmente ricostruita dai computer, probabilmente con un apporto fondamentale della telematica, insomma, della digitale, ma con una scenografia mozzafiato che fa da sfondo a questo film. Appunto questa grandissima stazione nella quale ci si può perdere, che ha addirittura un grande campanile, come quasi fosse una cattedrale. E questo c'entra perché il piccolo Hugo Cabret è orfano di un orologiaio, tra l'altro un Jude Law che presta proprio un piccolissimo cameo in un flashback che poi sentiremo. E allora rimasto senza padre, con la madre lontana, con lo zio che dovrebbe fargli da tutore ma insomma è più ubriaco che no, il piccolo Hugo Cabret si arrangia un po' nella stazione di Montparnasse cercando di aggiustare un automa, un uomo di ferro sostanzialmente, tutto pieno di meccanismi quasi a orologeria, cioè fatti come un orologio, che il padre aveva salvato da un vecchio museo e stava cercando di riparare prima di morire in un incendio. E allora la missione di Ugo è diventata cercare di aggiustare quell'automa, convinto com'è che quell'automa porti dentro un messaggio, l'ultimo messaggio di suo padre. Ma che cosa fa? È una figura a carica, come un carillon. Questo è il più complicato che io abbia mai visto. Veramente. Ecco, vedi, questo. Questo. Sa scrivere. Si può aggiustare? Non lo so, Hugo. È molto arrugginito. E trovare i pezzi giusti sarà molto difficile. Certo che lo aggiustiamo. Sarebbe stato molto difficile aggiustarlo, e proprio per questo Ugo cosa fa? Va a rubacchiare gli strumenti dei pezzi, degli ingranaggi, dei meccanismi di un vecchio e burbero e anche piuttosto triste giocattolaio interpretato da Ben Kingsley, che sta nella stazione di Montparnasse, ha un piccolo negozio lì. Allora Ugo, piccolino, riesce a infilarsi e a sottrarre qualche piccolo marchingegno meccanico, cercando proprio da quello di trarre i meccanismi, gli ingranaggi che servono ad aggiustare l'automa che sta su in soffitta. Però a un certo punto, un giorno, Ugo viene beccato dal vecchio giocattolaio che gli sottrae il prezioso taccuino sul quale il padre aveva scritto tutte, ma proprio tutte, le magie e le tutto quello che serviva, insomma, per cercare di aggiustare quell'automa, tutti i meccanismi, tutti i trucchi e i segreti di quello straordinario meccanismo. Sottratto questo taccuino, Ugo è privato praticamente di una guida, della guida che il padre gli aveva lasciato. Aggiustalo. Ho detto aggiustalo. So che hai rubato degli attrezzi dal negozio. Meglio che usi quelli che non hai rubato. Rivoglio il mio taccuino. Hai un po' di talento. E allora, da quel momento in poi il film diventa un'altra cosa. Perché? Perché chiaramente non ve lo vogliamo svelare, ma si scoprirà che questo personaggio del giocattolaio, la sua tristezza, questa rabbia quasi, questa quasi cattiveria con la quale ha sottratto il taccuino al piccolo Hugo Cabret, beh, avranno un significato, ed è un significato che ha tanto tanto a che fare con la magia del cinema, con la storia del cinema. Siamo nella Parigi degli anni 30, l'invenzione del cinema non è tanto tanto lontana. E questo porterà il piccolo Ugo in un viaggio straordinario alla scoperta della settima arte. Andiamo a sentire allora Martin Scorsese, l'autore di questo viaggio nel 3D, partendo proprio dalla scelta di questa tecnologia. Martin Scorsese di Mean Street, Taxi Driver, di tanti capolavori di realismo, anzi di iperrealismo, che si è dato a una magia che è quasi quella del miglior Spielberg, in un certo senso, con l'utilizzo di questa tecnologia. Perché? Che cosa ha dato ai suoi personaggi? When I discovered working with the 3D was... Penso che il 3D valorizzi l'attore. È come guardare una scultura che si muove. Non è piatto. con la giusta performance e il giusto movimento, è come se fosse una sorta di mix tra teatro e film. L'ho sempre trovata un'idea eccitante. Ho sempre sognato di filmare in 3D, ma non credevo che l'avrei fatto. Abbiamo detto un film che mette insieme alcune atmosfere alla Spielberg con qualcosa anche di Jeunet, se vogliamo, no? C'è la magia francese sospesa anche nelle musiche. Tutto questo chiaramente è il lavoro di Martin Scorsese, partito dalla graphic novel di David Selznick, che proprio Scorsese racconta l'incontro con questo libro. Ho ricevuto il libro più o meno 4 anni fa. Ed è stata una di quelle esperienze in cui mi sono seduto e ho iniziato subito a leggerlo da cima a fondo. C'è stata subito una connessione con la storia, vista dal punto di vista di un ragazzino vulnerabile, che vive da solo tra le mura di questa stazione, che ha perso il padre e quindi, per qualche ragione, cerca di trovare un legame con qualcuno. Per chiunque ami il cinema, Hugo Cabret è una vera festa per gli occhi. Ed è sorprendente perché, come abbiamo detto, forse da Scorsese non ti aspettavi, nonostante il suo infinito talento, questa grandiosa ricostruzione, alla quale contribuiscono in maniera determinante lo scenografo Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, 11 nomination all'Oscar per questo film di Martin Scorsese, che vuol dire che è stato nominato in praticamente quasi tutte le categorie. Un film che sposa la magia del racconto d'epoca, la grande ricostruzione, ma anche l'amore per il cinema. È forse proprio qui che sta Martin Scorsese, nell'aspetto cinefilo di questa pellicola, in quella sua seconda parte che racconta la scoperta del cinema da parte del piccolo Ugo e racconta come un grande personaggio dell'epoca cinematografica possa essere caduto nella polvere per poi risorgere grazie a questo bambino. Insomma, il Martin Scorsese che salva le pellicole, che racconta la storia del cinema, è tutto qui, è tutto in questo film. Dicevamo delle 11 nomination, se la dovrà vedere con un altro film ambientato in quegli anni, anche se muto, come The Artist, nella notte degli Oscar. Siamo convinti però che Hugo Cabret abbia qualcosa di più, abbia un'anima che forse il film con Jean Dujardin non ha fino in fondo, nella sua pur perfetta ricostruzione. Allora, questo è Hugo Cabret nei cinema italiani da questo fine settimana. E allora giochiamo adesso con il nostro DVD game, perché come sempre vi mettiamo a disposizione per i più bravi e veloci del sabato e della domenica dei DVD, una copia di un DVD di un film che oggi è un grande classico recente. Cerco di aiutarvi in questo modo. Sentiamo la prima traccia. Ci vuole una bella botta in testa per farla secca, bella forte, un colpo rapido e secco. Dai, proviamoci. Basta una bella botta. Bella forte, eh? Di che film si tratta? Lo avete già scoperto, lo avete già capito. La Rosa Purpurea, @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica per dirci, con il titolo ovviamente, anche il vostro indirizzo, e provare a vincere il DVD di questo film. Più tardi ci saranno altre 2 tracce misteriose. Parliamo adesso per qualche istante di un altro film che arriva nei cinema italiani, un film assolutamente indipendente e un po' fuori di testa, ma piuttosto affascinante, piuttosto ben riuscito. Stiamo parlando di Escher è stato qui, titolo originale semplicemente Escher, che è il nome del particolare protagonista di questa pellicola, regia di Spencer Susser. Attori Joseph Gordon-Levitt e Natalie Portman, quindi due nomi comunque importanti in questa pellicola indie, con il piccolo Devin Brochu, anche in questo caso un orfano di madre, che vive con il padre. A 13 anni si è trasferito dalla nonna, il padre è depresso dopo la morte in un incidente stradale della moglie, una famiglia felice fino a quel momento, distrutta da questa perdita. Il ragazzino cerca chiaramente di tenersi a galla, ma è abbastanza oggetto di vessazioni a scuola, e allora allora a un certo punto, un giorno, trova questa specie di, non direi un clochard, più che altro, insomma, uno senza fissa dimora, ecco, un giovane molto avvenente, molto muscolare, capelli lunghi, un po' maledetto, che però vive nascondendosi nei meandri di case in costruzione, di cantieri di periferia. Casualmente un giorno i due, dicevo, si incontrano, ed Escher cosa fa? Di soppiatto va a vivere nella casa della nonna del ragazzino, senza chiedere il permesso, senza dire niente a nessuno. Si installa letteralmente nella casa della nonna, che tra l'altro lo apprezza molto, e devo dire una delle cose migliori del film nasce proprio nel rapporto tra Escher e la nonna di TJ. E però diventa un po' una presenza ingombrante, perché il ragazzo ha una sua poetica, ha una sua etica, ma è anche un filino violento, e quindi, come dire, in certe situazioni tende a farsi giustizia da sé e a risolvere spesso pro TJ le cose in maniera un po' troppo virile. A un certo punto i due incontreranno una giovane, che è appunto Natalie Portman, che sarà contesa, sebbene uno abbia 13 anni e l'altro ne abbia 25, insomma sarà contesa fra i due, e diventerà invece dell'elemento di unione l'elemento di divisione della storia. Ascoltiamo una piccola traccia del trailer. Mi chiamo Paul Forney e lui è mio figlio TJ. Ho perso mia moglie, la mamma di TJ, poco più di 2 mesi fa. Si è svegliato? Ha dormito tutto il giorno? Ti senti confuso quando ti capitano delle cose così terribili, ma alla fine torni a stare bene come prima. Ciao, giovanotto, come va? Ciao, vecchia. TJ, questo chi è? Mi chiamo Escher, un amico di suo figlio. Dusty mi ha infilato la testa nel cesso e tu sei rimasto lì a guardare. Te ne devi andare da casa di mia nonna. Il bello di Eddie Escher è il suo essere disturbante. Sin dal primo momento che Escher arriva in scena lo vorremmo prendere a pugni insieme a TJ. Però come TJ anche lo spettatore poi ha una reazione che è quella di accettazione e anzi quasi di simpatia, per questo che rimane un personaggio fra i più originali nella galleria del cinema recente. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma, ancora 2 film, settimana ve l'ho detto, molto ricca, davvero, anche di stimoli, e quindi 5 film, quelli di cui parliamo in questa puntata della Rosa Purpurea. Arriva sugli schermi Millennium, uomini che odiano le donne. E uno dice, ma come, non c'era già stato 2 anni fa? Sì, ma lo sapete, gli americani ormai hanno sposato questa causa. Remake immediato del film, anche se è stato bello, anche se è stato di successo, ma non è stato americano. E allora bisogna rifarlo con attori americani che siano conosciuti in tutto il mondo, magari con un regista di nome, come in questo caso David Fincher, e farlo riuscire in tutto il mondo a rifare il giro, come se fosse nuovo. È una tattica che a me sta terribilmente antipatica, lo sapete, chi ci segue da un po' di tempo non è la prima volta che lo dico, era capitato anche con il film di Thomas Alfredson, Lasciami Entrare, però va così e allora noi ne parliamo, perché poi ogni film ha un valore a prescindere dal fatto che sia un remake o meno, anche se forse l'originalità sicuramente non è il suo forte. Ancora ritroviamo le storie, le vicende della ribelle hacker Lisbeth Salander, che viene incaricata da un ricco industriale di indagare su una scomparsa avvenuta decenni prima. Allora, ascoltiamo una clip dal trailer e poi il nostro Boris Sollazzo è già pronto con noi. Deve aiutarmi. Si troverà a indagare sulla più detestabile collezione di individui che lei abbia conosciuto mai. La mia famiglia. Questa è Harriet. Qualcuno della famiglia ha ucciso Harriet. E da 40 anni a questa parte cerca di farmi uscire di senno. Come faccio a scoprire qualcosa che non avete scoperto in 40 anni? Non si può mai dire. Ha una mente investigativa davvero perspicace. Mi serve un assistente. Lei è tra i migliori investigatori che ho. Ma è diversa. In che senso? In tutti i sensi. Mi occupo di me stessa da quando avevo 10 anni. Lo Stato si occupa di te. Ha avuto una vita difficile. Non rendiamogliela ancora più difficile. Lisbeth, voglio che mi aiuti a prendere un assassino di donne. Allora, Boris, intanto benvenuto. Potremmo dire uomini che odiano di nuovo le donne. Sì, esatto. Sono uomini che odiano di nuovo le donne, oppure anche odio i nazisti svedesi, per chi andrà a vedere il film, perché... devo dire che rispetto all'originale ci sono poche differenze, tra cui il finale è proprio il rimarcare il passato. passato, diciamo, nazista della Svezia attraverso questa famiglia molto molto potente. Sono d'accordo con te, anch'io odio particolarmente questo maluso del remake, che nasce solo dalla pigrizia del pubblico americano, che per non leggere i sottotitoli chiede ai propri produttori di rifare il film. È successo con la Beer, è successo con Balagherò, è successo, mi raccontavi, con Alfredson. Qui perlomeno c'è un bravo regista a rifare il film, quindi non fa troppi danni. Il buon Fincher può essere una buona scelta per chi non avesse visto l'originale. L'unica cosa che non mi convince francamente è Rooney Mara, che pur bellissima è anche abbastanza brava, francamente sembra un po' la parodia di Lisbeth Salander, non riesce ad avere il carisma soprattutto estetico di Noemi Rapace, che appunto era quasi un'icona, lo è diventata, di Uomini che odiano le donne. Per il resto Fincher secondo me attinge molto alla sua esperienza di Zodiac, cerca di recuperarne le parti più noir, le parti più cupe, in parte ci riesce, certo. A me viene in mente che Uomini che odiano le donne possa essere visto solo da chi ama molto Stieg Larsson, visto che comunque l'originale non ebbe grande successo, e potrebbe non essere soddisfatto, quindi non capisco francamente la ragione del prodotto, però vedremo e giudicheremo. Assolutamente, abbiamo tempo per farlo già dalla prossima settimana, già dal box office. Tra l'altro, piccola digressione sul box office, visto che abbiamo affrontato il tema del gradimento popolare. Ricordiamo che Benvenuti al Nord sta macinando milioni di euro dopo l'ultimo weekend, nel quale ha portato a casa altri 5 milioni e mezzo, è arrivato a 20, quasi 21, chissà quanto arriverà alla fine di questa settimana, tanto che un blockbuster annunciato come Mission Impossible Protocollo Fantasma è partito secondo con 2 milioni e 2, e ottimo esordio per ACAB, All Cops Are Bastard di Stefano Sollima, con 1 milione e 100 al primo weekend, e un terzo posto che lo pone tra l'altro davanti a The Iron Lady, con la nominata all'Oscar del caso, che era appunto la bravissima Meryl Streep. A questo punto noi giochiamo, piccola parentesi, poi abbiamo un altro film di cui parlare con Boris Sollazzo, giochiamo con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Avrà un vestito nuovo. E come? E che cazzo ne so? Continui a dire stronzate. Quante bollette dobbiamo ancora pagare? Luce, gas, il telefono è già staccato. E tu parli di comprare un vestito. La Rosa Purpurea, @radio24.it. Forse adesso è un po' più chiaro di quale capolavoro, come ho chiamato, capolavoro recente, classico recente si tratti. Scriveteci di che film si tratta, appunto, con il vostro indirizzo. Più tardi ci sarà l'ultima possibilità. Adesso ci spostiamo in Francia, con un film che ha avuto premi importanti, che ha subito colpito per il suo sguardo nuovo, pur all'interno di un genere che può essere ascritto in maniera ampia al polar francese, comunque al poliziesco tipicamente francese. Lo sguardo nuovo da due punti di vista: uno, le cose di cui si occupa, cioè i minori, i reati sui minori, e sono sempre un tema molto difficile da affrontare, soprattutto al cinema. L'altro, da quale punto di vista lo guarda, ovvero quello di una pattuglia specializzata formata soprattutto da donne, quindi è un poliziesco al femminile in un certo senso. Stiamo parlando appunto di questo Police. Noi andiamo a sentire subito una clip, poi sentiamo il parere di Boris Sollazzo. Voglio andare in collegio con Clémence. Perché? Perché papà mi vuole troppo bene. Che stai dicendo? Vi presento la signorina Melissa Zaia, che fa la fotografa. Mi raccomando, fatela sentire a suo agio. Non le farei vedere subito i casi più difficili. Se non ci dici chi ti riduce così, tra un anno, visto che sei piuttosto carina, ti ritrovi a battere il marciapiede. Attenta. Cambio di programma, andiamo. Una madre ha rapito suo figlio. Ma dov'è la macchina? Con 8 agenti devo andare a Belleville con 2 sole macchine. Aprite, polizia. Polizia. Protezione dei minori. Dove sono i bambini? Fuori. Calmalo, calmalo. Su, vieni con me. Piange sempre, io non so più cosa fare, non ne posso più. Lo scuote spesso? Beh, sì. E come mai il più grande la sera è sempre stato tranquillo e il piccolo invece no? Sarà perché il piccolo non lo tocco tutte le sere. Beh, insomma, le dichiarazioni, chissà cosa ci deve essere davvero a essere in una squadra di quel tipo, di cosa si sente, cosa si vede, soprattutto. Premio speciale della giuria al Festival di Cannes per questo Police, firmato da una regista, Mewen Lebescaut, con Karim Viard nel cast. Allora, Boris, un cinema francese che ogni tanto mette una zampata d'autore e anche di grande originalità, come in questo caso. Sì, sono assolutamente d'accordo, nel senso che forse il film non è un capolavoro e ha i suoi difetti, però dimostra, come vedremo anche per un genere completamente diverso in Intouchable fra un mese, che il cinema francese ha più del nostro, non tanto il talento quanto la voglia di andare a guardare al di là dei suoi stereotipi, al di là di quello che gli fa avere successo. Ecco, del film di Mewen, che a me era piaciuta più in precedenza, io apprezzo molto questo, la voglia di andare a raccontare un universo molto poco vicino alla sinistra al caviale di cui lei fa parte, se lo dice da sola, e quindi una stazione di polizia, un corpo speciale che indaga i reati di pedofilia, il tentativo di trovare un tono anche, oltre che originale, anche pericoloso, tra virgolette, perché in alcuni momenti si vedono anche le parti più ilari di un lavoro che si può fare in questo senso. Ne esce fuori un film molto discontinuo, anche perché ci sono tanti, forse troppi, personaggi, uno dei quali è Riccardo Scamarcio, che dalla scrittura alla realizzazione ha subito un forte taglio. Pare che Riccardo si sia arrabbiato e poi però abbia molto apprezzato il risultato finale del film, e quindi ci ritroviamo di fronte a un film interessante, un oggetto che secondo me va comunque studiato, apprezzato, e che sì, ha molti difetti ma anche molti pregi. Insomma, forse era esagerato il premio a Cannes, però di sicuro mette i riflettori su una regista che secondo me, quando limerà gli eccessi, forse le derivano dal precedente rapporto sentimentale con Luc Besson, riuscirà a dire la sua all'interno del cinema francese e riuscirà anche a sparigliare molte carte. E allora, Boris, grazie per averci parlato anche di questo film Police nei cinema italiani da questo fine settimana. Avete visto una settimana, come dicevo in apertura di trasmissione, davvero di grande grande densità. Tra l'altro la prossima non sarà da meno, perché in mezzo a, come al solito, film vari e particolari, arriverà per esempio un'altra versione 3D di un grande film che ha fatto epoca, come Star Wars, e quindi remake, sequel, versioni in 3D di film che già esistevano. Come dire, il cinema tende ad andare un po' sull'usato sicuro in questo caso. Bisognerà vedere con Star Wars Episode 1 come andranno le cose. Insomma, ve lo racconteremo la prossima settimana. Grazie Boris, ci sentiamo fra 7 giorni. Grazie Franco e buon cinema a tutti. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, quarta parte della Rosa Purpurea. È arrivato il momento di dare un'occhiata ai film da godersi in casa durante il corso della prossima settimana, e partiamo come sempre dalle proposte della televisione digitale, terrestre, comunque in chiaro, comunque gratuita, e quindi film che possono ampliare il vostro bagaglio, magari essere rivisti, essere visti per la prima volta, essere registrati, recuperati, come fosse una grande, grandissima cineteca. Lo facciamo partendo da una proposta, da un film che è stato il film poco conosciuto di un regista diventato molto famoso lo scorso anno con quel capolavoro che è Drive. Stiamo parlando di Nicholas Winding Refn. Il suo film precedente si chiamava Valhalla Rising, Regno di Sangue, e vale proprio la pena dargli un'occhiata con un altro occhio, forse con un altro sguardo, dopo aver visto anche Drive. Ne chiediamo conferma a Giulio San Giorgio della redazione del settimanale Film TV, che è già in collegamento con noi, che insieme a noi ha dato un'occhiata proprio ai palinsesti televisivi. Allora, l'appuntamento con Valhalla Rising, Giulio. Sì, ciao Franco e buongiorno ai radioascoltatori. Valhalla Rising, Regno di Sangue, martedì su Rai 4 alle 23:10, rappresenta uno scarto nella carriera di Refn rispetto alle opere precedenti. Refn ambienta nell'undicesimo secolo quella che lui definisce un'opera di fantascienza mentale, affrontando la parabola epica di un eroe quasi mitologico che da schiavo diventa guerriero, da dio uomo. È un cinema fisico, sontuoso, potentissimo, girato in digitale, in cui sono le immagini dei corpi a parlare molto più che le rarissime parole. Refn, che appunto è stato caso da Drive ed è una personale al Festival di Torino come un regista di nuovo culto, conferma solennemente qui il credo della sua poetica, ovvero l'arte come atto di violenza. E allora Valhalla Rising, Regno di Sangue, su rete, su Rai 4, alle 23:10 di martedì 7 febbraio. L'altra proposta invece affonda le radici nel passato ormai quasi quarantennale del cinema francese, nel cinema francese più capace anche di guardare al suo passato storico, ovvero La Combe Lucienne, cognome e nome La Combe Lucienne, il titolo italiano del film, un capolavoro di resistenza, potremmo chiamarlo, da parte del grande, grandissimo e mai troppo compianto Louis Malle, che va in onda su Rai Storia. Questa è una collocazione abbastanza singolare per un film, alle 21:10 del 10 febbraio. Esattamente, siamo nel 1944, Lucien è un giovane contadino che viene rifiutato dalla resistenza, diventa quasi casualmente un collaborazionista perché è sedotto dalla condizione sociale offerta dall'invasore nazista, viene infine catturato e ucciso dai partigiani. È un'opera molto controversa che scatenò moltissime polemiche perché si contrappone, come tutti i grandi film, a certi schemi manichei e certifica la complessità della realtà, il groviglio su cui si fondono e vengono sposate le ideologie, il tutto sostenuto da un'estetica quasi documentaristica che riesce a essere insieme secca e lirica in una ricostruzione d'epoca impeccabile e emotivamente coinvolgente fino quasi a sfiancare, uno dei migliori film di Malle, assolutamente. E allora l'appuntamento, lo ricordiamo ancora, è su Rai Storia alle 21:10 di venerdì 10 febbraio, cognome e nome La Combe Lucienne di Louis Malle. Grazie a Giulio San Giorgio di Film TV. Grazie a te Franco, e la prossima settimana con le nostre segnalazioni. E allora, queste erano le segnalazioni degli amici di Film TV per quanto riguarda la prossima settimana in televisione. È arrivato il momento di giocare per la terza e ultima volta col Blu-ray, anzi DVD. Oggi giochiamo in DVD. DVD game di oggi, sentiamo. Tu la vedi in una maniera e io in un'altra. Chiaro? No, tu hai fede. Ma cinque Ave Maria non ti aiutano a risolvere il problema. Tutte queste cazzate religiose stancano solo il cervello e non pensi più con la tua testa. Dall'Inghilterra un grande capolavoro piuttosto recente, La Rosa Purpurea, chiocciola radio24.it, l'indirizzo con cui partecipare al nostro game, come sempre inserendo tutti i vostri dati per poi favorire anche la spedizione. Andiamo a dare un'occhiata a chi ha vinto la scorsa settimana, sentiamo. Che problema hai? Il mio film è un disastro per colpa tua. So che mio padre è stato un idiota. Lascia perdere. Dobbiamo finirlo il tuo film. Non è più il mio film ormai. Che stai dicendo? Certo che è tu. Lascia stare. E allora si trattava di Super 8, il film con cui abbiamo giocato la scorsa settimana in Blu-ray, e hanno vinto due ascoltatori lombardi, Claudia Varani di Milano e Daniele Giannini di Robbiate, provincia di Lecco. Saranno loro a ricevere l'edizione in Blu-ray di questo film, della quale parliamo con il nostro Claudio Poffi, che è già in collegamento con noi. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, questa edizione Universal è veramente eccellente, sia DVD che Blu-ray. Noi ovviamente consigliamo l'alta definizione per la maggiore resa d'insieme e soprattutto per la presenza di queste numerose sequenze notturne che insomma sono piuttosto critiche. Dell'audio troviamo in entrambi i dischi la solita traccia Dolby Digital Multicanale. Sul Blu-ray, per una resa da sala cinema, c'è la Dolby Alta Risoluzione, addirittura 8 canali in inglese. Per gli extra sono tutti molto interessanti, c'è il commento del regista assieme al produttore e al direttore della fotografia, oltre un'ora e mezza di approfondimenti sulla lavorazione, ma ci sono anche scene tagliate e molto interessante l'analisi della realizzazione della sequenza del deragliamento del treno. E allora questo era Super 8, il game della scorsa settimana, spazio però anche a un paio di proposte per questo weekend in videoteca. E allora cominciamo con l'uscita in un video di un film recente, un film d'azione come The Mechanic. Hai mai ucciso qualcuno che conoscevi? Sì. È stato diverso dalle altre volte? Sul momento no, ma dopo sì. L'hai avvertito o gli hai dato del tempo prima di ammazzarlo? Un po' di tempo anche per fare pace. Non esiste la pace. Arthur Bishop è un killer specializzato nel far apparire come incidenti quelli che in realtà sono omicidi su commissione. Dopo aver eliminato Harry, un vecchio amico, si ritroverà ad addestrare agli omicidi scientificamente organizzati Steve, l'ignaro figlio della vittima. Per Arthur la situazione si metterà al peggio una volta realizzato di essere stato raggirato e spinto a uccidere Harry, mentre Steve scopre la prova della sua colpevolezza. Interessante remake con qualche eccesso dell'omonima pellicola di Michael Winner del 72 con Charles Bronson, qui sostituito dall'attore britannico Jason Statham. L'edizione 01 Rai Cinema è sia DVD che Blu-ray, soprattutto il Blu-ray sicuramente superiore per la qualità di insieme, c'è un po' di grana tratta in evidenza, doppia traccia DTS ad alta risoluzione italiano e inglese, come extra abbiamo solo il trailer. Parliamo adesso di una proposta davvero interessante, un cofanetto, una doppietta potremmo chiamarla, che ci regala uno straordinario autore del cinema classico francese come Melville. È una coppia di film, noi vi abbiamo voluto isolare la clip di uno di questi, Tutte le ore feriscono, l'ultima uccide. Ai documenti ci penso io. Quando vuole partire? Loro hanno fretta. Loro? Sì, c'è anche la sorella, ma lei è pulita. Devi dirgli che ci vuole una settimana per le carte, che si faccia crescere i baffi se già non l'ha fatto e che ti dia due foto o un negativo che svilupperò io. È chiaro che non gli farai il mio nome. Quanto vuoi. Già, è vero. È buffo, ma anch'io sono in vena di regali. Un'altra cosa. Domanda a Gus se vuol beccarsi 200 milioni prima di filare. La vita è dolce in America per i milionari. Quello che abbiamo appena ascoltato è un estratto dal Gioiello Polar del 1966 di Jean-Pierre Melville, in cui uno strepitoso Lino Ventura è un galeotto in fuga dalla Francia che per un colpo di mano di un ispettore di polizia si troverà contro la stessa criminalità organizzata di cui faceva parte. Da CG On Video, un'edizione doppio DVD di cui fa parte anche un altro noir di Melville, meno conosciuto, che ha il sapore della sopravvivenza, Bob, il giocatore del 1956, in cui un malinconico giocatore d'azzardo progetta un colpo a un casinò, ma farà saltare il banco vincendo i milioni che progettava di rubare. Due film in bianco e nero di buona qualità, l'edizione è solo DVD, formato cinema originale in entrambi i casi, c'è una doppia traccia monofonica italiano e francese, sono entrambi dignitose, come extra, gallerie foto e trailer. Ed è davvero una grande occasione di avere bravi anche quelli della Sinistra Film che lo hanno ripescato, appunto, di avere messo le mani dentro un tesoro come questo appunto, di questo doppio Melville che arriva in videoteca. Grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. E siamo arrivati in chiusura, alla fine della nostra corsa, l'ora di cinema di Radio 24 si chiude qui, l'appuntamento va fra 7 giorni, come abbiamo accennato prima sarà una settimana, un'altra settimana di grande cinema, da Star Wars Episode 1 in 3D a un gioiellino noir come La verità nascosta, a una grande interpretazione di Glenn Close in Albert Nobbs, insomma la commedia italiana che torna, quella da classifica con Come bello far l'amore, ce ne sarà davvero per tutti i gusti qui su Radio 24 il sabato alle 18, la domenica in replica alle 15 alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.